sono spaziale, speciale, eccezionale, se tu, se tu sei tra. Ma benvenute, cosa fate da queste parti? Se... Io sto cercando Natalia. Ma è lì? Come lì? È lì? Ma, anzi, è qui, nel senso che Natalia ormai è nell'animo, nella vita, nel programma, è ovunque in setup. Eccola qua. Eccomi qui. Sì. Sono stata sotto, sopra. Di lato. Cioè, no? Di lato. Sì. A fianco. E noi ti abbiamo seguita. Davvero. E ti abbiamo portato fin qua. Non me l'aspettavo così, però bello. Va bene, neanche io me l'aspettavo così, in effetti. E... però coccicamente connettivo, insomma, ci sta. È possibile, vero? Possibile. Perché questa qui in realtà è una sorta di anteprima della terza puntata della programmazione di Coxo Spaziale speciale setup. Perché giusto, siamo tutti a setup. Siamo molto speciali, anzi. Molto speciali. Io sono molto coxica, Laura spaziale megagalattica. E setup è tutto questo, è tutte noi, e in particolare Natalia Mazer. Oggi qui. Oggi, ieri, ma ieri soprattutto, vogliamo ieri dirlo. Più Natalia Mazer, oggi più brosche. Sì, perché Natalia Mazer, questa splendida voce, questa splendida donna, è, insomma, è stato bellissimo perché l'altra sera l'ho incontrata insieme ad altre amiche e la conoscevamo tutte, ma ciascuna la conosceva per un motivo diverso. È vero? La multidisciplinarietà. Capita anche a te questa cosa, Laura? Sì, assolutamente. Infatti noi ci conosciamo per diverse vie. È vero. Quindi, perché questa cosa capita anche a me. E diverse. E alla fine, ma stiamo parlando della stessa Laura, stiamo parlando della stessa Natalia, stiamo parlando della stessa Fedra. Forse sono tante. Oggi dicevo, e magari sono... mando l'altra Natalia a fare le altre cose. Infatti... Laura. Io ho mandato l'altra Laura. Non sono io. Allora, io... qui dal Coxo Spaziale, anche dalle puntate speciali di Coxo Spaziale a Setup, sono sempre Fedra Boscaro Boscaro, che dir si voglia, di Coxo Spaziale. E sei in versione certezza radiofonica. Questa è la certezza più certa che abbiamo. Co-ideatrice insieme a Stefano W. Pasquini di Coxo Spaziale, tutti i giovedì, FM 103.1, Radio Città Fugico. Almeno per il momento, che poi ci cacciano. Ma per ora... Ma per ora io sono sempre questa qui, però sono qui a Setup per le puntate speciali di Coxo Spaziale at Setup, quindi Contemporary Coxo Art Fair. Setup speciale. Esatto. E qui Laura, la versione di Laura Ulisse che noi abbiamo, è quella di, per la prima volta e finalmente, che è un secolo che ci provo, co-conduttrice coxica. Occasionale. Sì, ma è una occasione meravigliosa. Occasionalmente meravigliosa per la terza puntata di che stiamo registrando qui da Setup venerdì 29 gennaio 2016. E dall'altra parte del nostro tavolo, quindi abbiamo da un lato le co-conduttrici, che ce ne siamo, dall'altro abbiamo la Natalia Mazer, sempre artista performativa, ma appartenente a una famiglia. Che è una famiglia che mi accompagna, diciamo, da 10 anni. Ci accompagniamo in questo percorso. E lo dici tu, come si chiama sta famiglia? Beh, sono tutti fratelli. Siamo dei fratelli. I fratelli Brosce. Esattamente. E adesso qua ci metto anche uno stacco. Avremmo dovuto dirlo in coro. Ah. Ecco, brava. Allora, dopo lo stacco... I fratelli Brosce. E qua ci vorrebbe un applauso, ma mi sa che non ce l'ho. No, non ce l'abbiamo, però, l'applauso. Però io sono, come ha detto bensì un ragazzo una volta, tanti anni fa, io sono la sorella dei fratelli Brosce. Raccontiamo un pochino, quanti fratelli nascono come prima sfornata? Noi nasciamo tanti, perché di base abbiamo delle colonne portanti, siamo sempre abbastanza in 3. Però a volte siamo in 5, a volte in 12, a volte di meno, a volte di più. Tutti maschi a parte te? No, ce n'è stata un'altra, altre donne ci sono state e ci sono ancora, che comunque collaborano con questa realtà di fratellanza, di famiglia d'arte, diciamo. Una è la più importante, direi, Benedetta Bonomi. Mitica. Mitica, Benedetta Bonomi, è presenza importantissima. Che adesso ultimamente non sta lavorando con noi, però ha fatto una tappa molto importante, se si può dire, della nostra storia. Diciamolo. Lo diciamo. E un'altra anche molto importante è stata Beatrice Plas, come voce di off di uno dei nostri spettacoli più nascosti, diciamo, che sono Le Quattro Pagine. E un'altra presenza anche importante è stata Simona Sandrini, più nascosta, però qualche cosa si è fatta anche con lei. E va bene, tutti questi passaggi, ma poi le altre donne che ci sono donne fantasme, se vuoi, che sono parte della storia dei fratelli, perché sono alla fine il filo conduttore del nostro lavoro. E allora sempre le donne. Continuiamo a svelare un velo dopo l'altro per entrare sempre più a fondo in questa realtà, in questa famiglia, in questa fratellanza e sorellanza anche, insomma, questa coccicità, coccicità qua non ci sta, insomma. E però spieghiamo perché i fratelli Broche, che sono una famiglia, un collettivo, una famiglia ritrovata, un collettivo, un gruppo che da quanti, una decina d'anni e più ormai? Sì, siamo quasi alle 11, però sì. Lavorano con le arti performative, ma non solo, e sono la realtà con cui sono felicissima di inaugurare il Coxo Focus. E il Coxo Focus che ho proposto per questa occasione, ovvero Radio Coxo Spaziale, ospite di Radio Città Fujiko nello studio a Setup Contemporary Art Fair, e riguarda proprio un attraversamento di quelle realtà che a Bologna e poi anche altrove, ma comunque radicate nel territorio, che a partire dal performativo, dall'ambito del performativo, sono andati a usare codici canonicamente riconosciuti alle altre arti, installazione, arti visive, mediali, e qui ci sono tutte, me lo confermi Natalia? Confermato, posso confermare questa cosa. Quindi benvenuti ai fratelli Broche, e intanto prima la sorella e poi arriveranno anche i fratelli a momenti, per che ci aiutano a varare la primissima puntata del Coxo Focus. doesn't scare me. Nuovo qui nello studio di Radio Città Fujiko a Setup per gli speciali di Coxo Spaziale at Setup. In particolare inauguriamo il tema del Coxo Focus con i fratelli Brosch. E dopo aver spiegato un pochino di cosa andremo a parlare e quindi dato delle bandierine, degli ancoraggi di senso, io chiederei a Natalia, che dici Laura, se entriamo un pochino magari nello specifico di chi sono i fratelli e cosa fanno. I fratelli, lo sapete già, che sono un mistero, una famiglia acquisita dove le storie sono state intrecciate, diciamo, per costruire proprio questa storia, questa famiglia d'arte. Quindi una famiglia d'arte, siamo nell'ambito... che cosa? Cioè... della soap opera. E l'ambito nostro è sempre stato quello della soap opera. Noi abbiamo iniziato con delle piccole pillole dove raccontavamo la storia familiare, una storia abbastanza macabra, dove abbiamo avuto dei personaggi molto misteriosi, a volte svelati, ma molte volte no. Mi fa venire in mente che mi ricordo secoli fa, i primi anni miei bolognesi, una festa Twin Peaks. A casa di Mauro. Esatto, che lui è stato il primo fratellino che ho incontrato, perché ci siamo incontrati insieme al laboratorio di Picchi. Io mi ricordo di te vestita da indiana. Non ero cosa io. Cosa mi son persa. Non eri tu. Io ero vestita da una delle colleghe di Laura Palmer quando lavorava al One Eye Jack. Ok, non eri tu. No, non ero io. Ho dei ricordi incrociati allora, però mi ricordo comunque di te. Ero vestita colorata, anticipavo i tempi rispetto al mio percorso personale. Ma tu anticipi sempre i tempi, Fedra Boscaro o Boscaro. Che dir si voglia. Io anticipo me stessa, mi trovo un po' in contropiede. È giusto, noi non siamo mai in ritardo, siamo sempre in avanti. Su questo metto un gingolino perché coxo sacrale, messo. Coxo sacrale. E quindi ho interrotto perché questo è il mio ruolo. Stavo dicendo della soap opera, poi queste pillole performative che vanno sempre intrecciate con una storia familiare che parla molto di decadenza. Dall'inizio noi abbiamo sempre parlato molto di decadenza, di legami familiari, di relazioni perverse molte volte, che questo poi rappresentano molte volte la psiche di una persona, non necessariamente sono delle cose del reale, no? Se si può dire così. E dopodiché tutte queste cose sono sempre state attraversate da diverse discipline, perché sempre abbiamo utilizzato il video come corrispondente dell'immagine che stavamo mostrando, come un doppio gioco di quello che succede da una parte a un livello e nel video un altro livello di quella stessa storia. Volendo, in molti spettacoli anche ci sono state delle canzoni, della musica anche interpretata soprattutto da Samuel, che, sì, che è l'elemento il più... nostro tenore soprano tutto quanto. È il più sonoro dei sonoro dei fratelli. È molto sonoro. E poi sì, a parte il video e il sonoro, la danza, che diciamo... si può dire che io sono la più danzatrice dei fratelli. Tu sei anche multimediale? Sì, io sono anche multimediale, mi sono occupata di alcuni montaggi, abbiamo realizzato dei video un po' insieme, però un grande nostro regista che si è occupato di audiovisiva è Francesco Costabile Brosch, che non so se tutti conoscono, però lui lavora a Roma... ed è quello che ha fatto molti dei nostri video, da quello dello Schiaccianoci a quello di Quattro Pagine e forse qualcun altro che non ricordo, però lui si è occupato molto di queste cose. E noi adesso ci occupiamo di andare a recuperare i fratelli che sono qui, si aggirano qui fuori è meraviglioso quanto sono educati questi fratelli, cioè ci hanno visto qui a parlare insieme a Natalia ed erano lì fuori a guardarci aspettare. Che, aspettare. Ci diamo il cambio allora. Beh, ma facciamo anche un salutino insieme. Insieme. E benvenuti fratelli. Benvenuti. Al momento ne abbiamo tre, le tre colonne portanti della fratellitudine. Infatti. Allora ricambiamo. Ascoltiamo un breve brano, riorganizziamo i microfoni e poi di nuovo qui con i brosci per il Coxo Focus. Eccoci qua, siamo tornati in diretta da Setup, Coxo Spaziale, e sono arrivati i fratelli, per cui diciamo che Natalia si è congiunta con la famiglia Broche. Fratelli Broche, progetto artistico che attraversa le arti performative, e siamo qua anche con Stefano e Samuel. E ciao! Ciao! Benvenuti, bentrovati. E penso che veramente non potevamo aprire il Coxo Focus con una famiglia, un progetto, se non che con loro, insomma. Così diventiamo rossi, anzi viola. Io sono già di tutti i colori, okay, ecco, un pochino sì. Così. E da domani le foto di tutti i colori, di tutti quanti noi qui, su www.coxospaziale.blogspot.com. Bene. Quindi fino adesso con Natalia siamo partiti un po' dall'origine, dal muoversi attraverso un immaginario legato alla soap opera, legato alla famiglia, legato a certe fantasie, certe immagini che abbiamo detto Natalia anche in qualche modo macabre, no? Se si vuol dire. Da qualche parte qualche mistero viene fuori. Misteriose. Sempre, qualche cosa oscura. Qualche scheletro nell'armadio. Ecco, che ne nascondiamo tutti. Esattamente. E per poi giungere quindi da questi primi attraversamenti del contemporaneo ad ampliare l'orizzonte, contrarlo. Che cos'è adesso i Fratelli Brosch? Si era fatto avanti Samuel che si è subito tirato indietro per la piega che ho preso. Ma semplicemente siamo appunto, come diceva Laura, una realtà artistica. Ci definirei quasi un magma che ribolle. Attraversiamo, diciamo, più specificità artistiche, quindi andiamo dalla semplice lettura di fiabe in pubblico alla performance in senso stretto, alla lezione di tango. Siamo appunto una realtà, diciamo, poliedrica. Ci piace definirci come famiglia perché le nostre dinamiche sono non volutamente ma spontaneamente quelle familiari, quindi si sono instaurati rapporti che simulano quello e in modo forse poco modesto siamo molto contemporanei in questo, perché ci siamo scelti, quindi è una famiglia costituita, non è una famiglia spontanea, ma in qualche modo appunto andiamo a rappresentare proprio per questo motivo la famiglia contemporanea. Questo si, non so cosa ne pensi tu Fedra, ma si vede e si sente proprio molto chiaramente anche nei vostri lavori, ma anche proprio nel rapporto che avete tra di voi. Se posso aggiungere qualcosa oltre a quello che immagino abbia raccontato Natalia, e sono gli esordi. Il nostro lavoro più completo iniziale, perché noi all'inizio lavoravamo a livello performativo nei locali, quindi nelle discoteche, in spazi altri da quelli istituzionali dell'arte. E, il primo lavoro, lo Schiaccianoci dei Brosch, me lo ricordo, è un po' un esorcismo dei rapporti familiari. E attraversiamo la grande madre in questo lavoro con una nostra totale visione, perché ognuno dei componenti della famiglia Brosch ha avuto una grande madre in qualche modo e ci ha segnati. E con quello spettacolo abbiamo risolto questo nostro rapporto familiare. Meraviglioso, questo risvolto non me l'aspettavo proprio. Tra l'altro, così do un'informazione, sul nostro sito c'è una pillola video di questo spettacolo molto esaustiva, dove vedrete una grande Natalia. Che da domani sarà linkato insieme nella pagina di www.coxospaziale.blogspot.com, da cui saranno riascoltabili tutte queste puntate. E noi ci prendiamo un brevissimo momento per salutare Natalia. Sì, perché noi, a parte di esorcizzare negli spettacoli, esorcizziamo facendo delle torte quando torniamo dalla discoteca e anche ballando moltissimo. Quindi io vado a ballare il tango, vi lascio tutti e in bellissima compagnia. Ciao Nati. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Buona ballata. Mettiamo un pezzo di tango allora adesso. Vai. Assolutamente. Desapareció che sera. Crescieron y murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Fuori onda, l'hai sentito mentre Natalia andava via? Io avrei voluto troppo avere il registratore, perché era proprio la misura, la cifra della famiglia. Allora tu prendi quella, io porto quello. No, parlavano, si mettevano d'accordo sugli oggetti, su alcuni oggetti. E infatti adesso mi aggancio con una riflessione che stavo facendo mentre stavano parlando. È che guardando i fratelli in scena, proprio nella loro espressione creativa, artistica, una riflessione, una cosa che mi ha sempre colpito è l'equilibrio tra i colori, l'ironia, i corpi, i suoni, le note, gli oggetti, e un equilibrio proprio che a me ha sempre colpito tantissimo, che si palpa. E poi il colore, l'oggetto, la materia, il materico, che caratterizza molto proprio la vostra poetica, l'essenza del vostro essere in scena, l'equilibrio che c'è tra i corpi e gli oggetti. Certo, allora l'osservazione è molto giusta. Sì, è cardine per quello che riguarda la nostra poetica. Il là dei nostri lavori è sempre l'oggetto. Cioè noi fonte spesso proprio partiamo da un oggetto. Fonte di ispirazione. Questo non è un appiglio superficiale, nel senso che nonostante la società occidentale voglia mirare allo spirito, in qualche modo è tirata verso il basso dalla materia, perché noi siamo pregni di materia. E questo è un argomento quasi scottante in qualche modo. Si può anche legare poi a politiche molto contemporanee, quali il discorso dello spreco, della dinamica dell'usa e getta, eccetera. Quindi un nostro fil rouge è la materia, perché andiamo a ripescarla alle origini, con tutta la potenza che essa può scatenare, nel senso che la materia è pregna di sentimento in qualche modo, perché è appartenuta a qualcuno, è passata di testimone a qualcuno. È il vissuto. Quindi per noi è grossa fonte di ispirazione, e da qui partiamo poi per le nostre vicissitudini da palcoscenico e la costruzione. Sì, a volte è proprio quello che ci fa partire nella creazione di qualcosa di performativo, di installativo, è la storia che noi conosciamo del soggetto, dell'oggetto e del soggetto che l'ha appartenuta. E quindi, cioè, tutto questo in noi chiaramente scatena un sacco di fonti di ispirazione. E adesso io, che vi ho ascoltato ghiottamente, aspettavo di chiedervi un esempio concreto. Possiamo fare un percorso? Cioè, potete raccontarci come da un oggetto siete arrivati poi alla scena, a un'installazione, insomma, a una delle vostre enunciazioni? Beh, magari non parlando in specifico di un particolare lavoro, semplicemente un pensiero che ci salta alla mente viene seguito dall'osservazione di un oggetto. Quindi penso alla Morte a Venezia, il romanzo Morte a Venezia, mi vengono in mente le conchiglie, e da quel momento poi passo al secchiello dei bimbi, e da qui poi può scatenarsi l'immaginario, quindi perché il secchiello, quali colori, quale epoca, eccetera eccetera. Ho ritrovato un secchiello in una casa magari che ho sgomberato, e da qui ci andiamo a legare ad un altro argomento che potremmo legare all'oggetto, quello che noi facciamo anche quotidianamente, l'altro nostro lavoro. L'impresa di famiglia. Sì, l'impresa di famiglia. Ci siamo inventati anche un lavoro parallelo, oltre a quello performativo. Se mi permetti, sì, comunque c'entra un pochino anche con... Assolutamente, è assolutamente, sì, fuso assieme. Assolutamente, sì. È un lavoro totalmente imprescindibile e inscindibile dal... Ad esempio dalla io scena, nel, dal palcoscenico. Nel mio piccolo c'ho questa cosa, ma i costumi di scena dove li metto? Però, vabbè. Assolutamente. Beh, è un lavoro poetico in qualche modo, perché, beh, lo diciamo, abbiamo un commercio, cioè un atelier dove trattiamo oggetti d'epoca, che può essere antiquariato, ma ci siamo specializzati nella moda d'epoca. Questo potrebbe essere anche un lavoro freddo, anche se è impossibile considerarlo tale. La cosa bella e romantica di questo lavoro è il recupero, perché noi ci siamo specializzati in una modalità. Raccogliamo ciò che le persone disperderebbero, quindi sgomberiamo gli appartamenti. E con gli oggetti vi portate anche tutto il carico del vissuto, tutto il bagaglio, delle passato, tutto il bagaglio. Passato di una persona o di una famiglia addirittura. La cosa imprescindibile da questa azione che compiamo è il fatto che noi instauriamo sempre un rapporto di scambio con chi ci chiama. Cioè, noi cerchiamo di avere più informazioni possibili, e c'è anche poi, se si instaura, se questa cosa funziona, si crea un rapporto per cui noi abbiamo delle persone a cui siamo tenuti, quasi obbligati, a dire dove vanno a finire le cose che riceviamo. Siamo diventati in qualche modo un po' i medium di questa materia. Che apprezzano tantissimo questa cosa, e noi, ok, allora questa cosa è andata in Australia, oppure è andata alla persona che abita sopra di noi, e dobbiamo, cioè siamo tenuti a dire, è un contratto quasi. E voi in questo modo donate all'oggetto una nuova possibilità, una nuova direzione, un'altra diciamo vita in qualche un'altra modo, storia, una che nuova, è un po' quello percorso. Che poi create voi nella scena, cioè voi create un'alternativa, una possibilità alternativa di visione della realtà. Sì. È bellissima questa definizione. Sì, è molto precisa. Grazie Laura, bella. Sì, comunque è un oggetto da cui ad esempio siamo partiti per costruire un lavoro performativo, è proprio un abito, un costume che useremo nella nostra prossima performance, quindi presto, e che è un abito, adesso la firma, diciamo l'autore non è così importante che sia di uno stilista, è Gianfranco Ferré, è un abito anni 80 che è stato fatto in pezzo unico per una sua importante modella, e che ci è stato dato direttamente da lei, quindi questa è una cosa che ci è stata data dicendo questo l'ha fatto Gianfranco per me. Ma questa signora... Ed è un abito che proprio io, il primo giorno che abbiamo fatto le prove, abbiamo detto io voglio partire da qui, cioè carta bianca sul lavoro performativo, io vorrei partire da questo, e l'abito è uno spettacolo. Lei ce l'ha ceduto con un'idea, perché lei è un amante dell'arte e ci teneva che quest'abito, per questioni sue personali, ritornasse in scena. Sì. Non è la prima persona, fa parentesi, è una piccola cosa questa, però contatta. Ha una sua importanza molto forte. Mi ritorna in mente laddove abbiamo cominciato, quindi il tema della famiglia, il rimosso, forse anche queste cose che ti rimangono, i ricordi che ti rimangono attaccati e ti sono lì di fianco e quasi senza neppure saperlo, insomma questa ricchezza che adesso un po' mi sto perdendo anch'io. Beh, è bello perdersi a volte. È molto bello. E nell'attesa di vedere il vostro prossimo lavoro legato a questo abito, a me nell'ascoltarvi è venuto in mente un lavoro che era anche un'installazione che ho avuto la fortuna di vedere l'anno scorso. Sveva Zamboni. Parliamo un po' di Sveva? Due parole? Secondo me sì. Beh, è molto, come dire, molto identificativo. Perché poi lì in un certo modo c'era un po' di tutto, no? Forse mancava la componente video. No, c'era. Ce n'erano due. Perché questo lavoro su Sveva Zamboni era un'installazione che poi è stata anche agita performativamente, sì. E che attraversava diverse sale di questo spazio espositivo che è adiacente nella vecchia sede. Si può dire che Sveva Zamboni sia stata la sintesi di tutto quello che noi possiamo fare, sappiamo fare, e di sì, una specie di tipo piccolo bignami di quello che è. Sì. Beh, Sveva Zamboni è un personaggio da noi inventato. È un collage. È un omaggio ad una donna, e la raccontavamo in quell'occasione mediante i suoi oggetti quotidiani. Quindi Abbiamo scritto una storia, la storia di una donna, e abbiamo ricostruito il suo guardaroba, la sua camera da letto, alcuni momenti della sua storia mediante il video, e quindi diciamo tramite diverse forme di messa in scena e mediante i suoi oggetti siamo riusciti a ricreare appunto un'atmosfera, un'esistenza. E la cosa molto bella secondo me è che dopo un po' di tempo più persone ci hanno chiesto chi fosse realmente Sveva e se fosse ancora viva. Questa cosa secondo me è molto bella. Magari è un'antenata brioche. Ma in qualche modo secondo me voi siete due artisti, quindi potete capire quello che dico. Ogni personaggio che viene costruito è l'insieme di più menti e di più corpi, è una condensazione di più esperienze. Quindi quando si mette in scena un personaggio, secondo me questo personaggio è un multipersonaggio in qualche modo, che noi identifichiamo in un'unica figura. Quindi sì, può essere... Sì, c'è anche lei nel collage, un'antenata sicuramente c'è. A questo punto il ritmo radiofonico incombe, e che brano mettiamo? Possiamo scegliere noi? Sì, poi me lo passate. Frank Sinatra? Domani è un altro giorno. Ornella Vanoni. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza speso dare, dare, dare, non ho salvato niente, neanche te. Ai noi, eccoci arrivati alla fine dell'ultima puntata del primo Coxo Focus insieme a tutta la famiglia Broche. Abbiamo avuto in carne e ossa tre fratelli, una sorella e due fratelli, e però abbiamo attraversato, rispetto anche alle origini, ad altre presenze, a fratelli e sorelle future e passate. E per concludere, mentre sono lì che ci guardano questi due bei fratelli, rispetto al Coxo Focus, alla luce di questo percorso che è stato veramente, vi ringrazio, è stato veramente bello. Ma grazie a voi. Grazie a voi. E, no, grazie a voi. Andiamo avanti così, dai, un altro quarto d'ora. ti sfido a Monopoli. Rispetto al Coxo Focus, alla fine voi avete sin dagli origini usato il linguaggio e il codice che più vi era funzionale. Ma a noi è un po' connaturato, appunto, usare più discipline, più forme in qualche modo, e quindi siamo proprio fatti così, non le scegliamo, ci viene spontaneo, a parte giocare a calcio, poi il resto le facciamo tutte. Non avete mai giocato? Ma io però forse mi ricordo un'immagine, forse in scena. Era finzione scenica, però forse sì, pura la recitazione. Finzione non è mai finzione, pura recitazione. Secondo me sì, infatti. Forse era un lavoro sul rimosso. No, guarda, Fedra, era tennis. È vero, era tennis. Beh, cara Laura, è stato bellissimo averti finalmente come co-conduttrice. Cara Fedra, grazie di avermi invitato. Ci volevano i Broche. Ci volevano i Broche. Laura, ti voglio intervistare io però, prossima volta. Bene. Ma senza, quindi, co-conduttori voi e Laura Otto. Ottimo, ottimo, interessante. Segna. Però segno anche che mi ritorni anche tu prima o poi, anche perché poi abbiamo tante diverse, abbiamo una Laura Ulisse estremamente poliedrica. Anche lei, anche lei. Dillo forte, urlalo. Sì. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui alla prima giornata di Coxo Spaziale Speciale Setup e vi restituisco al mondo. Grazie. Ciao Laura. Ciao. Ciao. Coxo spaziale, speciale, eccezionale. Se tu sei bravo.